Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, Oscar. 8 e 18 minuti. Ci siamo anche oggi. E quel 28 di giugno. Mamma mia, come passa. Hai visto, ragazzi. Ma siamo a luglio. Come si fa? Guarda, io ti dirò che prima del santo, adesso lo dirò ovviamente, eccetera eccetera, il mio pensiero va a una signora torinese che si chiama Concetta Candito, Candito, e va a lei perché è passata tutta la giornata di ieri dopo aver letto le agenzie, e la signora di 46 anni che si è data fuoco ieri all'INPS per disperazione. Per disperazione, perché è licenziata a gennaio, la procedura di licenziamento insomma e, purtroppo non le ha consentito per mesi, di fronte alla pratica che andava instradata, alle particolari modalità eccetera, di vedere se non un primissimo versamento a maggio, e la signora fuori di protestare ieri ha ceduto nei nervi, è stato fuoco. Allora, volevo semplicemente dire alla famiglia, a questa signora che ha studiato di terzo grado a Torino, che tante volte ho parlato degli imprenditori negli anni che si impiccavano eccetera eccetera, non fa alcuna differenza per me. Quando succedono cose così non posso fare a meno di fare un esame di coscienza e dire che mi sento niente, che mi limito a dire a loro, adesso voluto alla famiglia oltre che a loro, che bisogna avere pazienza ed è impossibile chiederla a loro rispetto ai ritardi burocratici del paese. Però senza voler toccare il cuore di nessuno, ma per ricordarci che ci sono cose così in Italia, oggi per chi crede pregare Sant'Ireneo, vescovo di Lione, martirizzato da sotto Settimio Severo, quindi nei primissimi anni del 200, 202, 203. Auguri a Sabrina Ferilli e a Gerry Calà. Oggi nel 1883 Milano, uno dei primati di Milano, a via Santa Radegonda, vicino al Duomo, apriva la prima centrale elettrica europea. È un primato che abbiamo, ed è la giornata mondiale dell'orgoglio LGBT. Ah, oggi? Ma per questo intorno a questi giorni ci sono i Pride in giro. Ah, certo, un po' dovunque, per così dire. Esatto. Allora, alle 8 e 20 minuti siamo qui, caro Oscar. Guarda, la politica, io sono veramente basito di come ogni giorno sia la sua pena, i giornali rechino la nostra pena nella lettura, meno la mia, la mia personale. No, bisogna, per mestiere noi dobbiamo. Dai, perché voglio dire, siamo arrivati proprio alle accuse di congiure e complotti da parte di Renzi, dall'altra parte sì, più inclusivo. Prodi che dice ho messo la tenda, Renzi che dice sposto la tenda, non ti preoccupare, ho già messo la tenda nello zaino. Renzi dice state zen occidentali scarma ai suoi, ma siamo veramente dinamiche interne a partiti che hanno problemi. Del resto va sempre meglio a loro che al Partito Socialista Francese, che ha 116 anni di vita, è nato nel 1901. No, ieri il suo gruppo, 30 eletti rispetto a 309, ha deciso di cambiare nome, non si chiamano più socialisti, quindi muore, si chiameranno El Gauche, e quindi riflettere. Cambia la storia, riflettere, cambia i tempi, ecco. Però certo, anche io posso dire, ho trovato singolare che ieri mattina Renzi nella sua rassegna stampa, ti fa concorrenza, dica questa polemica fa addormentare, dopodiché due terzi della sua news di ieri era sulla polemica e lui l'ha rinfocolata, quindi dico, se pensi che sia sbagliata non insiste, ma voglio dire, vedere le paginate sui giornali su questo sinceramente mi deprime un pochettino, perché proprio adesso c'è l'asse Prodi Franceschini, per riassumerlo, l'asse Prodi Franceschini per contro Renzi. Renzi che ai suoi dice questa è una congiura, visto che ho vinto le primarie mi vogliono cacciare. Ma non è che nel centrodestra vada meglio, la manfrina di Salvini che dice basta Berlusconi leader, il leader sono io, perché sennò lui strizza l'occhio a Renzi. cioè ci aspetta, ma veramente era meglio allora votare a settembre, almeno si accorciava questa agonia. Lo so, avrebbero trovato altro, però Alessandro lo sai, sei un osservatore anche tu di lungo corso e quindi sai che sarebbe così. No, ma è l'unica cosa che mi lascia veramente. Ma adesso veramente facciamo 6 mesi così. Senza parole. Ne facciamo di più anche, anzi, siamo a giugno, quindi ne andiamo avanti fino all'anno prossimo. A me quello che colpisce, che poi la sostanza è un calendario politico, prima bloccato dal referendum, poi dalle elezioni anticipate, tutto diluito, infatti le banche sono deteriorate anche per questo, e le polemiche queste sono per dire poi, siccome nessuno sa o è certo ragionevolmente di vincere, è meglio proporzionale così non vince nessuno. Cari ascoltatori, è un gioco a perdere, poi io non voglio sindacare, la politica decide, figuriamoci. La politica fa quello che vuole, ma detto questo, come per le banche i soldi dei contribuenti, così allo stesso modo una legge elettorale che non vi fa decidere, per i sindaci decidete, come vedete, e a livello nazionale non sarà così. Comunque diamo il numero di telefono 800 24 0024, però vogliamo parlare e partire dalla vicenda Rai e dalla vicenda Fabio Fazio, perché c'è polemica sui giornali per il compenso che Fabio Fazio ha strappato nel rinnovo alla Rai. E c'è anche poi la polemica relativa a Giletti, l'Arena. Esatto, relativa a Giletti, l'Arena che sparisce, non si sa bene che cosa faccia. Io sono abbastanza sicuro, l'ho detto da 2 giorni, che secondo me è una chiusura un po' strana, ecco. Perché è un diciamo programma di grande successo, è un programma popolare, però contro la quale la politica è sempre sorta. Perché un po' scomodo come perché programma. I toni, l'insistenza e soprattutto tutto il fatto che poi non si piegasse ai politici che dicono adesso basta, e dicevano no, veramente i fatti sono così. Ecco, e questo sicuramente concorre a una scelta. Io sono un po' colpito al nuovo direttore generale Orfeo, un grande direttore di giornale, che dimostra tutto questo tempismo nell'allinearsi alla politica, perché Giletti dava fastidio. Io per primo lo ringrazio, non sono in conflitto di interesse, più volte mi ha invitato sul tema dei vitalizi e così via, tutte le volte polemiche, tutte le volte ho dovuto ridocumentare quello che dicevo, quindi ohimè. No, ma sicuramente è un programma di quelli, per carità, poi non dobbiamo martirizzare nessuno, non dobbiamo parlare di epurazione, no, eccetera, perché secondo me bisogna però utilizzare le parole giuste. Però la Rai del canone elettrico, esatto, tra i grandi compensi delle star che piangevano che se ne andavano perché questo era, poi dopodiché restano con più soldi, e chi fa il suo mestiere e invece lo spengono, gli dicono no, fai le grandi serate di intrattenimento. Sì. Ha colpito anche la dichiarazione di Monica Maggioni, presidente della Rai, perché in commissione vigilanza Rai ha dato una visione sulla vicenda Fabio Fazio molto, molto netta. Vogliamo sentirla? Sentite cosa ha detto il presidente della Rai. Fazio fa parte di una storia Rai che Rai ha costruito spendendo, anche perché la costruzione dei percorsi si fa pagando e spendendo. Pensare di vedere transitare quel marchio, perché comunque anche il titolo era suo, e quindi oggi sarebbe stato un trauma che non so se Rai avrebbe retto in termini di sistema. Non so se la Rai avrebbe retto in termini di sistema la perdita di Fabio Fazio e del suo marchio. Accidenti. Io se fossi Fabio Fazio, come ho detto prima, la ritaglierei questo audio e lo porterei in trattativa economica, esatto, chiederei il triplo. Perché insomma, se la Rai non regge in termini di sistema, se me ne vado, allora me ne date non 2 milioni e 2 all'anno, me ne date 5 di milioni all'anno. Sì, sto molto misurando i termini, perché porto rispetto al presidente della Rai, eccetera, eccetera, è una loro valutazione, rimango senza parola. Senza parola. Il problema, vedete, non è da parte mia, l'abbiamo detto 1000 volte, in questo la penso come te, noi non siamo bigotti moralisti sui compensi di chi fa altissimi ascolti, non è questo il punto. Il punto è solo uno: chiarire la natura della Rai, che invece dice che è privata quando gli fa comodo e dice che è pubblica quando mette il canone in bolletta e piange lacrime di coccodrillo perché vuole più proventi. È tutto qui, la parte pubblica, come in Gran Bretagna, viva del canone, a quel punto scelto liberamente, perché in Gran Bretagna c'è l'opting out, non è una tassa obbligatoria del possesso, e a quel punto niente pubblicità. Che per fare intrattenimento, cioè televisione commerciale, va benissimo, meglio pagare tantissimo chi fa molti ascolti e molta pubblicità, però separate le risorse da gestione. Non so, vediamo se fa scandalo questo 2.2 milioni a Giancarlo Mazzucca del CDA della Rai. Buongiorno Mazzucca e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. È scandalosa questa cifra, dobbiamo considerarla tale? Sì. Sì, tanto è vero che io mi sono dissociato, non ho votato a favore di questo contratto, mentre appunto il collega Freccero se n'è andato prima, io sono rimasto in aula, e in aula, insomma, nel seduta consigliario ho spiegato per quale motivo votavo contro, cioè votavo contro, mi astenevo da questa votazione, perché da una parte sono convinto che la perdita di Fazio sarebbe stata comunque grossa per la RAI, d'altra parte però c'è modo e modo di arrivare a delle vette, questa vetta era assolutamente di stipendi assolutamente eccessiva. È vero che Fazio può essere definito il Maradona della RAI, però anche il Napoli a un certo punto ha perso Maradona, non ha più vinto lo scudetto, ma il Napoli comunque, cioè il sistema, non è, il sistema non è crollato. Quindi, che effetto le fa dire, sentire la presidente Rai dice sarebbe crollato? Beh, è chiaro di fronte a tutte le polemiche deve difendere la Rai, forse è un po' eccessivo questo termine usato dalla amica Maggioni. Detto questo, io credo che sia sbagliato il principio generale, cioè noi abbiamo combattuto per mesi il fatto che c'era questo tetto dei 240.000 euro appunto con questa legge, per cui effettivamente ci bloccava la possibilità di tenerci grandi artisti, grandi star. Quindi abbiamo combattuto e abbiamo cercato di arrivare a un accordo, un'intesa sia con l'Avvocatura di Stato sia con il Ministero dell'Economia per superare almeno per alcune star questo tetto. Ci siamo riusciti, abbiamo avuto il parere favorevole in tal senso, però poi mi sono rimasto abbastanza contraddetto sul fatto che abbiamo pagato tanto Fazio per tenercelo, che poi alla luce degli ultimi avvenimenti non era previsto neanche che dovesse andare in un'altra ente di televisione, perché ieri la Sette ha smentito che il contratto era definito. Sì, perché spieghiamo, Fazio pare aveva detto come in serie di trattativa, guardate che io vado alla Sette, ho già firmato un precontratto, sì, e pare non sia vero. Pare non sia vero, quindi siamo stati un po' con la spada di Damocle di questa uscita, e che ne ha condizionato anche il consiglio Rai, ma d'altra parte abbiamo fatto questo sforzo per tenerci appunto da una parte un artista come Fazio e d'altra parte non abbiamo fatto niente per mantenerci un artista come Giretti, cioè abbiamo abolito la sua trasmissione. Cioè, se noi abbiamo fatto tutto questo sforzo per tenerci le grandi star, dobbiamo farlo sia per Fazio che per Giretti. Perché Giretti chiude secondo me? Non lo so, io sono rimasto sorpreso. Ma nel senso che in consiglio di amministrazione non vi è stata motivata e non è passata questa scelta? Non è passata. Ah, interessante. Io ero presente alla votazione di Fazio, dopodiché mi sono assentato, quindi c'è stata una seconda votazione sul palinsesti, non c'è, quindi non so qual è stata la discussione sull'arena di Giretti. Comunque mi sembra strano, appunto abbiamo fatto tutto questo sforzo per Fazio e poi aboliamo la trasmissione all'arena di Giretti, che aveva uno share di 4 milioni di euro, esatto, e portava un sacco di pubblicità, di 4 milioni di spettatori e portava un sacco di pubblicità alla Rai, quindi ma è d'accordo, posso chiedere, non so, poi lei giustamente capisco per l'incarico che ha, deve misurare le parole, ma quello che si legge e di cui molti colleghi che hanno lavorato insieme a Giletti, spesso invitati, animato le sue polemiche e apprezzato, devo dire, il modo con cui lui te le faceva fare, secondo lei ha fondatezza quello che ci sembra, e cioè che sia un diktat politico perché a Renzi non piaceva o a tanti altri, e non solo a Renzi, perché hanno polemizzato anche il centrodestra tante volte e così via, oppure no? Certamente ci sono stati dei condizionamenti politici, perché se no non si spiega sia l'abolizione di una trasmissione che aveva successo. Qualcuno ha premuto. Mi dispiace tutto questo, perché c'è appunto due misure, una bene per Fazio che praticamente ci ha condizionato tutti questi mesi. Perché il problema di Fazio non è tanto poi certamente anche l'entità dell'ingaggio, ma quello che però come quello che pesa è la durata, 4 anni, quindi sono 11 milioni complessivi, questa è la cosa che deve essere. Ma infatti la cosa, Mazzucca, quello che dà fastidio, diciamo, è l'entità oppure il fatto della deroga di 240.000 euro e il fatto che sia troppo a prescindere, perché su questo io, Oscar, appunto, non è che pensiamo che buon per Fazio, cioè voglio dire, se porta anche ascolti eccetera, anche se fosse stato 2.5 milioni non scandalizza la cifra, cioè non c'è l'invidia sociale da parte mia, da parte di Oscar, no, da parte di molti italiani sì, devo dire, cioè, cos'è? È quello, noi non siamo d'accordo, cos'è il problema, che... è che però in Rai ci dovrebbe essere chiaro ciò che è servizio pubblico da ciò che no, questo è da sempre, sì, il problema. Infatti, ci può essere una deroga, è giusto tenersi i campioni, però una deroga non eccessiva, perché poi si superano i limiti, allora l'opinione pubblica. Appunto. Io, guarda, al suo tempo io ho molto combattuto il fatto che c'è un'evasione molto grossa del canone Rai, oltre a un certo punto arrivava il 30% degli utenti, quindi sono stato favorevole al fatto che il canone Rai venisse messo in una bolletta elettrica per evitare gli italiani lo hanno fatto, adesso, alla luce di però in cambio di quello successo, alla luce di quello che è successo sono pentito di aver favorito quel provvedimento, perché? Adesso, perché a un certo punto facciamo pagare a tutti gli italiani e poi gli facciamo pagare un contratto così alto per Fazio, apprezzo. Quindi i soldi della Rai sono soldi degli italiani, quindi in questo senso mi sono dissociato dal contratto assegnato a Fazio. Va bene, ci sono altre novità Rai che ci dobbiamo aspettare, perché oggi c'è la presentazione. Ma poi io voglio anche ricordare Mazzucca, perché anche questo mi colpisce, cioè Fazio ha rilasciato interviste, una in particolare in cui non solo il rapporto era consumato con la Rai, ma la durezza, essendo un uomo di solito concavo e convesso, abituato a parlare rotondo, non è un uomo che fa polemiche, Fazio, era durissimo nel dire che questa azienda non ha mai vissuto, da che ci lavoro, una inframmettenza politica così violenta e dura, testuali parole. E invece ma infatti io adesso potevo anche votare contro, mi sono astenuto in quella votazione perché avevo comunque apprezzato lo sforzo fatto dal direttore generale, che in pochi giorni era stato costretto ad affrontare una patata così bollente e quindi cercato in tutti i modi di tenersi scuderia uno come Fazio, però non ero d'accordo col fatto che Fazio ha ottenuto questo contratto praticamente minacciando un giorno sì un giorno no il fatto di uscire, cioè, ci ha messo un po' la pistola puntata in questo senso, quindi è il modo anche di con cui insomma Fazio evidentemente ottenuto... come Donnarumma ha un raio alla migliore, ecco, questo è il mio commento. ma chi è il raio alla di Fazio? Qui lei tocca un punto delicato, lo sa che le star in Rai a seconda di chi le rappresenta hanno un peso più o meno importante, lo sa che è così, non devo dirlo sappiamo, io lo sappiamo. In ogni caso, Mazzucca, noi la ringraziamo per essere stato con noi, ci ha detto alcune cose interessanti. Oggi ci sono presentazioni di palinsesto. Vedremo come va, Grazie ovviamente. Grazie Giancarlo a voi Mazzucca, e buon lavoro. Membro del CDA della RAI. Ci ha detto anche pentito del provvedimento. Parla con lingua aperta, non troppo diplomatica, Mazzucca. Del resto si vede che è un ex giornalista di quelli che batte la trincea da anni e anni e anni. Non lo deve alla politica. Detto questo, Donnarumma, guarda che è arrivato. I gol di ieri sera. No, ieri sera come c'era la Wonder Night. Ma non ti sto infatti aggiornando, lo so bene. Tra l'altro, cari ascoltatori, bravi, grande successo a Milano. E io sono molto lieto della causa. Vedi, ormai il titolo della Gazzetta: Gigio non vola. Cioè, ormai la verità è che Donnarumma verrà preso. Guarda, di punta che nei gol di ieri, vatti a vedere gli highlights dei gol e troverai un Donnarumma un po' parecchio. Parecchio colpito. Però alla ti chiedo, Oscar, che anche tu osservi il calcio, anche se No. L'avrebbero notato con lo stesso titolo di prima pagina della Gazzetta, che la risposta è no. Cioè, il titolo è La Spagna vale, Gigio non vola. Cioè, come dire, la colpa è di Donnarumma, non lo so. Ecco, no, però a tutti gli osservatori non potevano fare a meno di dire. Ecco. E adesso appena sbaglierà un'uscita al 15° del secondo tempo. Ma però è inevitabile, le leggi sono quelle. Vedi, Fazio minaccia, però vince. E se tu minacci e ti incarti, diventi incerto. Vabbè. Ce lo teniamo comunque. Roberto da Milano, buongiorno. Bravo. Speriamo, ecco. Costruttivo. Roberto, ti voglio Roberto così, da Milano. Ecco. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io faccio un ragionamento molto semplice, sono una persona semplice, quindi i miei ragionamenti sono molto basici. Non capisco come mai in una realtà come la RAI, che per natura dovrebbe essere pubblica, delle persone che noi non abbiamo la possibilità di eleggere, né tantomeno delle quali abbiamo la possibilità di conoscere i programmi nel momento in cui dovessero entrare in un consiglio di amministrazione, prendono dei soldi che noi diamo e li gestiscono in audita altera parte, così. Come se investitori di qualsiasi cosa non avessero la possibilità di capire dove vanno a finire i propri soldi, specialmente quando poi si verificano situazioni come quella di Fazio. Vabbè, non entro neanche nel merito perché vabbè, faccia capire Fabio, cioè Roberto, cosa dobbiamo fare, un referendum popolare siccome i soldi sono pubblici per capire Fazio sì, Fazio no? Roberto dice ci sono ordinamenti con aziende pubbliche di servizio pubblico, per esempio BBC, dove non vengono scelti dal governo i capi azienda come noi con la riforma Renzi, prima era dai partiti, ma insomma la politica, perché lì c'è un filtro, c'è una fondazione di società civile che garantisce delle nomine professionali, che devono esporre dei programmi sulla base dei quali poi le si giudica, su come investono nell'audience. Ecco, in Italia la RAI della politica non è mai stata così, io ho capito questo che diceva Roberto, no? Ma specialmente poi quando ci sono realtà tipo quelle della Gabanelli e poi ci sono realtà tipo quelle di Fazio, cioè si sta parlando di situazioni veramente incomprensibili se non si vuole sfrugugliare un attimo, perché poi in realtà è evidente che il report avesse dato fastidio a n cose, quindi vabbè, però ci sono i rompiscatoli e gli amici degli amici, ecco, io vado fuori dai denti, la dico così, perfetto. la sintesi di Oscar Giannini è questa. Roberto, noi la ringraziamo per questo suo intervento. Allora andiamo un attimo in pubblicità, dando il numero di telefono sempre 800 24 00 24, poi parleremo anche un po' di politica, avremo il neo sindaco di Sesto San Giovanni che ha interrotto 72 soli anni di guida della città rossa, 72 come si suol dire, sì, praticamente tutti dopo il Podestà, 72 dopo la guerra, ecco. E poi parleremo anche dopo le 9 del caso dell'attore Domenico Diele che è in carcere, sapete la vicenda, in un incidente stradale ha ucciso una persona. Devo farmi dire una cosa, apprezzo Minniti che ha dato un segnale alla politica che non si sta rendendo conto che stiamo per essere travolti in questi giorni da un ritmo quotidiano di profughi, sbarchi, presi oramai sulle spiagge libiche tra un po', e ha detto no, io non mi muovo dall'Italia, non vado negli Stati Uniti, guarda, non si può andare al ritmo di 5.000 profughi al giorno, che è il ritmo di questi giorni, 5.000 al giorno. Eh sì, tra l'altro Minniti che ha sospeso proprio il viaggio a Washington per dire la situazione è così. E secondo me ha richiamato anche i colleghi del governo che non c'hanno la testa su questa cosa qua. Anche perché 10.000 in due giorni, in due o tre giorni, cioè è una media città italiana, cioè non ce ne rendiamo conto. Tanto che Minniti ha proposto, vuole proporre alcune cose anche drastiche, per esempio chiudere per alcuni giorni i porti alle ONG altrove. No, ma adesso io sono alieno. Tendopoli. Alieno dai toni demagogici. Ma misure di questo tipo sono ormai necessarie, bisogna assumerle evitando la benzina contrapposta, cioè 10.000 ogni due giorni significa 100.000 in 20 giorni, quindi significa 150.000 in un mese, dall'ordine di grandezza. Siccome l'estate è un picco per le condizioni del mare, chiaro, come ovvio, però a questi ritmi c'è l'esplosione. Infatti ho notato in questi 3-4 giorni un'esplosione di stampa internazionale anche che si sta rendendo conto del fenomeno, e molti iniziano a dire questa cosa di prenderla sulle spiagge libiche, cioè a 5 miglia, è diventato un potentissimo incentivo a un vero traffico. E quindi bisogna dire anche però gli stati europei, da Malta eccetera, collaborazione nulla. Perché quando ha iniziato a dire Minniti le ONG li portano anche negli altri stati, negli altri porti eccetera, gli altri porti sono chiusi misteriosamente, ecco. Quelli italiani sono aperti, e quindi però bisogna per un periodo per forza immaginare una sospensione, cioè così non andiamo da nessuna parte. Andiamo in pubblicità tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Le 8:43 minuti, allora caro Oscar, 800 24 00 24, effettivamente poi Minniti verrà accusato adesso di muscolarità. Ma no, muscolarità, i numeri sono impressionanti, cioè. E i sindaci anche lì vedono nella fascia siciliana, attenzione che intanto in Sicilia è esplosa formalmente la polemica anche formale. Ieri era la prima giornata della discussione della finanziaria, non sono riusciti a votare nulla e così via. La politica in ebollizione in Sicilia, i sindaci delle fasce costiere in cui proliferano le richieste prefettizie da parte del governo di fronte a questi numeri di apprestare nuovi centri di immediata emergenza, dicono: noi, ma come facciamo? Ecco, sta diventando di nuovo un problema. Sì, un problema davvero di ordine pubblico, anche non è innegabile che è così. Tra l'altro, uno dei motivi, non credo l'unico, ma uno dei motivi per i quali si è detto ha vinto a Sesto San Giovanni ed è un sindaco di centrodestra, ed è una notiziona perché da 72 anni Sesto San Giovanni, ex Stalingrado d'Italia, governata dal centro-sinistra, uno dei motivi della vittoria di Roberto Di Stefano è stata proprio la questione gestione immigrati, ecco, diciamo così. Roberto Di Stefano, buongiorno. Buongiorno. Neo sindaco di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. È così, quanto ha inciso la questione immigrazione, anche la questione moschea, quindi i rapporti con i musulmani, la questione di dire no alla moschea, ha inciso davvero tanto secondo lei? Ha inciso molto, ha inciso anche il malgoverno, la quotidianità che questa amministrazione per 5 anni aveva abbandonato, la mancanza di servizi, ma il tema sicurezza è stato ovviamente un tema fondamentale, sia per una moschea di 2450 metri quadrati che vogliono costruire, una moschea che sarà la più grossa della Lombardia su un'area di 3000 metri quadrati. Considerate che a Sesto ci sono circa, che frequentano, un 400 fedeli musulmani. Quella moschea sarebbe arrivata ad ospitare 4000 fedeli musulmani, quindi praticamente avrebbe tolto le castagne dal fuoco a Sala, a Milano, che non la vuole realizzare, a tutta la parte del nord Milano, Cinisello che ne ha due abusive, Cologno che le ha rifiutate, quindi in tutto un tratto ci saremmo trovati tutti i fedeli musulmani della provincia di Milano, tra l'altro sì, facendo proprio lì davanti la fermata, il prolungamento della linea rossa, quindi questo significa che in 20 minuti da Loreto, via Leiener, via Padova ci ritrovavamo tutti a Sesto. Ma scusi, lei usa il condizionale perché conferma questa moschea non si farà con lei? Assolutamente sindaco. Assolutamente no, è proprio uno delle nostre principali battaglie, già ci siamo, adesso dovrebbe scadere la convenzione nei prossimi giorni, dovremmo rinnovargliela perché loro, era una convenzione firmata dalla precedente amministrazione nella quale la comunità musulmana non ha iniziato a realizzare nulla nell'area, devono avere il rinnovo della convenzione, che non sarà assolutamente rinnovata, anche perché si parla di una moschea che dal punto di vista urbanistico è abusiva, nel senso che quella attuale va contro la normativa regionale sull'apertura dei nuovi luoghi di culto, APGT, a piano di governo del territorio, non è a norma perché l'area è adibita a servizi e non a luoghi di culto. Poi c'è il problema dei finanziamenti, è emerso che probabilmente ci sono finanziamenti che provengono dal Qatar. Io vorrei vedere prima di tutto i bilanci e la tracciabilità delle fonti finanziarie. Sì, la Qatar Foundation finanzia tantissime moschee, però sappiamo che anche il paese è il paese che è stato considerato, sui quali tutte le monarchie del Golfo, l'Arabia Saudita hanno un blocco in atto con richieste durissime. È lo stesso paese che però fa shopping e acquista palazzi a Milano o in Italia, hotel in tutta Italia, quindi insomma. Però giustamente lei sindaco dice: voglio vederci chiaro, vorrei vedere chiaro anche i conti, e non anche perché quella da loro proposta ha un costo di 5 milioni di euro, loro mi hanno detto che la finanziano con un caffè al giorno, facendo due calcoli sono 400 fedeli, sono diciamo 400 euro al giorno con i caffè, ce ne vuole, o sono tutti nervosi a bere fuori a bere caffè, oppure i soldi provengono da altre realtà. E poi c'è il problema che l'imam della moschea ha aderito alla costituente musulmana, quindi alla costituente del partito musulmano, che comunque è a favore della poligamia, è a favore alle feste, al calendario della comunità musulmana, quindi tanti elementi che vanno un po' in contrasto con quella che è la normativa nazionale. E voglio vederci un po' chiaro per capire se si tratta di una realtà che si vuole veramente integrare, oppure se hanno un progetto di moschea sul modello francese di convivenza, dove loro vogliono applicare le loro leggi, le loro regole, certo, ovvero la Sharia, e non rispettare la normativa italiana. Però, sindaco, è una moschea, non è che è una madrassa dove immagino istruiscano. Però, insomma, comunque lei, la sua posizione è molto chiara, è stato detto, sì, anche perché... siamo stati votati proprio perché, certo, avevamo una, certo, posizione chiara e... di conseguenza le amiche non è chiaro, mantiene il programma. Senta, a proposito degli effetti del voto amministrativo, che hanno, sì, stupito molti, perché insomma avevano capito che l'area stava girando, ma le proporzioni del ritorno all'affermazione del centrodestra sono state superiori alle aspettative anche di molti osservatori. Detto questo, ieri i sindaci del PD, i maggiori centri lombardi, a poche ore, a urne e a sconfitta fresca, hanno dichiarato tutti di riconoscersi e di sostenere, fonderanno addirittura un comitato per il sì nel referendum previsto per ottobre, consultivo Regione Lombardia, molto voluto da Maroni del centrodestra, che chiederà: siete favorevoli o meno a rafforzare l'autonomia della Lombardia in coerenza a quanto dice l'articolo 116 della Costituzione? Ecco, tranne alcuni di loro che lo avevano detto, bisogna essere onesti, negli ultimi mesi, di essere favorevoli al sì, di solito il PD diceva: iniziativa inutile, spreco di soldi, eccetera, eccetera. Ieri hanno cambiato idea. Qual è il suo commento, la sua impressione? Ma evidentemente hanno capito che affrontare dal punto di vista ideologico, così come hanno fatto fino ad oggi, certi temi non ha più senso. La vittoria del centrodestra, secondo me, è stata la vittoria di un'apertura al polo ai poli civici su tutti i comuni, perché abbiamo notato a Sesto, come a Monza, come nelle grandi, anche in Liguria, che laddove abbiamo fatto le alleanze con le realtà civiche, con le realtà moderate, con il terzo settore, per intenderci, abbiamo vinto. Bisogna intraprendere quel percorso che secondo me la sinistra non è riuscita, ha abbandonato, non si è chiusa un po' nel palazzo e ha affrontato i problemi più dal punto di vista ideologico. Tornando alla questione Lombardia, una maggiore autonomia è oggettivamente necessaria anche per consentire di mantenere sul territorio maggiori risorse ed evitare i continui tagli che stanno arrivando con i trasferimenti da Roma. Quindi, se si vuol bene al proprio territorio, ci sta tutelare e difendere la propria autonomia. L'approccio ideologico li portava a non voler sostenere questa linea, evidentemente hanno capito che serve un approccio più di dialogo e collaborativo. Spero che continui. Va bene, noi intanto la ringraziamo, sindaco, ci porti la Pro Sesto in Serie C o anche in Serie B, se possibile. Io sono di Sesto, se non sei capito, sono nato e cresciuto a Sesto, va bene, grazie sindaco, ovviamente non può far niente, insomma, per portare la Pro Sesto. Sai in che Serie i politici C. che potevano, però, a parlare imperfetto nel calcio, erano altri. Va bene, grazie Roberto Di Stefano, neo sindaco di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Caro Oscar, ci sono gli ascoltatori. Sì, Enzo c'è da Bari. Buongiorno, buongiorno Enzo. Buongiorno. Sì, dica Enzo. Senta, io volevo intervenire in merito alla questione Fazio. Ovviamente voi siete andati avanti nel frattempo. No, ma non c'è problema. Volevo semplicemente rilevare un problema anche di coerenza da parte di Fazio. Chi conduce trasmissioni importanti come quelle con Saviane, come quelle che fanno appello anche a un'etica, perché poi alza così l'asticella del guadagno, della vita? no? Ma perché lei, lei associa il guadagno a, il troppo guadagno alla mancanza di etica. È qui che Oscar storce già la bocca. Anch'io, però lo sai che questo argomento pesa. Però è un argomento che pesa. Enzo, cioè lei fa questa associazione, cioè troppo guadagno non può essere associato. Non faccio questa associazione. Faccio un'associazione di coerenza. E perché? Qual è il messaggio di Saviano e di Fazio? È guadagnate poco. Si fa notare che c'è un'attitudine di avidità nella politica, nel mondo industriale, non condivide alcuni valori. E poi dopo io mi muovo con la stessa avidità. Ah, ecco questo. Obiettivamente io... Non vede coerenza non vedo coerenza, certo, non solo non vedo coerenza, ma mi scade anche un pochettino il discorso. Dico, ma penso ci sia dell'ipocrisia. E poi l'altra cosa che volevo far notare, questo ovviamente da spettatore, voi siete dei giornalisti, è che comunque noi abbiamo l'arma del cambio canale rispetto al dissenso. Anche al di là dei contenuti rispetto a delle forme. Sì. Va bene, io credo che non ci sia nessuno che cambia canale pensa allo stipendio Fazio di Fabio Fazio. Coltivato un pubblico che al quale ha posto millimetriche variazioni negli anni della sua formula, quindi questo è uno scienziato. Insomma, la formula del nostro ascoltatore è: Fazio ha il cuore a sinistra, la lingua al centro, il portafoglio a destra. Questo è la sintesi di Oscar. Le sintesi di Oscar mi fanno un bordo. No, ma titoli giornalisti, anni passati a passare i titoli dei giornalisti, tutto qua, però a volte sono brutali. Però è un sono po', titoli, po' questo, sono titoli. Cuore a sinistra, lingua al centro, perché lui è abilissimo a non far capire, portafoglio a destra. Allora, dopo il giornale radio ripartiremo da Gennaro da Napoli, chiediamo un attimo di pazienza, ma d'altronde andiamo avanti fino alle 9.30, sapete, parleremo dei vostri temi che volete e anche del caso di Woodcock, dell'attore. No, parleremo anche del caso Woodcock, diremo la nostra. Woodcock dice non toccate la Sciarelli, non toccatemi Federica. Il caso non è questo, però dai. Vabbè, comunque tra poco diremo poco, 30 sì. secondi diremo ma anche certo, su questo. State con noi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 ore. Con Sebastiano Barisoni. Si è tolto ieri qualche sassolino dalla scarpa il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi durante il forum delle banche centrali mondiali che si è tenuto a Sintra in Portogallo. Draghi infatti ha ricordato che il vento è cambiato nell'area euro e sul versante politico spirano venti a favore di riforme ma anche di coesione, consumi e investimenti. Ma i sassolini sono arrivati da un'altra considerazione del presidente della Banca Centrale Europea. Mario Draghi, dopo aver ricordato che la ripresa dell'area euro è al di sopra delle attese ed è ben distribuita, ha invitato però anche alla prudenza su quando terminare l'aiuto, ossia il quantitative easing che la BCE dà regolarmente, 60 miliardi di euro di acquisti di titoli di Stato ogni mese. E poi ha ricordato che da quando lui ha lanciato il quantitative easing e quindi dall'inizio degli acquisti di titoli pubblici, era il gennaio 2015, ad oggi l'economia dell'area euro è cresciuta del 3,6%, ben più degli Stati Uniti dopo operazioni analoghe, e nello stesso tempo l'occupazione è cresciuta di oltre 4 milioni. Draghi parlava ai suoi colleghi delle altre banche centrali, ma riferimento alla Germania, alle polemiche che hanno accompagnato il suo ruolo, capeggiate anche da chi vorrebbe prendere il posto, ossia il presidente della Bundesbank, Weidmann, erano più che evidenti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Attenti a noi due. Siamo qui alle 9:04, caro Oscar, andiamo avanti fino alle 9:30, come ben sapete ormai, cari ascoltatori, e ripartiamo come promesso da Gennaro da Napoli. Lo ringraziamo per la pazienza di essere stato lì. Gennaro, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, come ho detto in presentazione, io sono furioso con Giannino, perché le cose che dice sull'immigrazione erano evidentissime anni ed anni fa. Ora, dire le cose giuste nel momento sbagliato significa dire cose sbagliate. Se continua così, noi avremo certamente la guerra civile, un regurgito neonazista, e non so come va a finire. E tutto ciò perché... regurgito neonazista, speriamo proprio. E vabbè, allora qual è la soluzione? Che ci ammazzano tutti? Perché questi sono giovani, mica vengono ad ammazzarci. In età militare, noi siamo vecchi e pochi. Qual è la soluzione? Capito, le case adesso ce le chiedono, poi se le prenderanno. Fuori ai supermercati, adesso stanno con il cappellino, domani staranno col coltello. Sì, però Gennaro, se lei dice come soluzione, come non ci... poi risponde Oscar perché appunto è partito attaccando Oscar, se dice che come una naturalezza, che la soluzione, l'unica, può essere quella di un rigurgito neonazista, mi perdoni. Io ne ho un timore. Timore. Di una certezza, perché così finisce. Così e finisce. Qui è in gioco la vita, non è in gioco, qui è in gioco la vita. Questa è gente che ha fame ed è tanta. E noi siamo vecchi e pochi. Oscar, questa è la verità. Oscar, l'ascoltatore... No, ma non capisco perché ce l'ha con me, perché noto che 10.000 al giorno, invece dovevo notarlo quando erano 100 o 200, ognuno ha le metriche diverse. Dopodiché, sa, il tono la definisce, punto. Allora, va bene, Gennaro, comunque la ringraziamo. Noi siamo, come dire, aperti, lo sapete, a tutti i pareri, tutte anche le forti posizioni. Perché... temo che più alziamo il tono in questi giorni, meno il problema diventa concentrarsi su chiudere il flusso adesso. Quando sono 10.000 non è come quando sono 100. Tutto qua. Se non vi è chiaro questo, amen. C'è Daniela che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Allora... niente, io sono un po' arrabbiata con il sistema governativo e sono d'accordo col signore che ha parlato poco fa. Questa è veramente un'invasione che noi non ci rendiamo conto, perché adesso loro vengono da soli, poi arrivano con i familiari, con le mogli. Noi italiani non possiamo fare più figli perché... giustamente non siamo tutelati dal governo. Io ho una figlia che ha fatto un figlio solo e deve pagare 380 euro di asilo nido, perché giustamente supera un reddito, il governo dice che non se lo può permettere, che è ricca, giusto? Allora giustamente arriveremo al punto che loro governeranno e noi saremo i loro schiavi, perché sicuramente è noi e loro, Daniela, cioè non vede tutta una contrapposizione, noi e loro. Oh, guardate che questo welfare l'hanno fatto i politici che avete scelto voi, non so se è chiaro, questo forse è il caso di rifletterci, cioè un paese non per giovani che concentra il 16% del PIL in pensioni, questa roba qua, i politici prendono i voti con questo, ne hanno speso altri 7 miliardi per riabbassare l'età pensionabile, non è che potete volere tutto questo e poi lamentarvi e dire che la colpa adesso diventa dei musulmani, perché i musulmani hanno belle responsabilità nella storia, i paesi musulmani, ma qui stiamo parlando del traffico di carne umana che viene dai paesi che hanno problemi, che è una cosa un po' diversa, direi, musulmani. Però detto tutto questo sono un po' colpito, cioè io per esempio sono polemico come lei, cioè ci hanno detto, ieri il governo ci ha spiegato, dopo che ha preso due ceffoni il giorno prima dalla Banca d'Italia, che ha detto al Ministro dell'Economia come cacchio ti è uscito di bocca dei 17 miliardi, tutti hanno capito che stiamo prendendo i soldi dei contribuenti. Allora ieri il Ministro dell'Economia ha detto no, ci possiamo guadagnare dal mettere i miliardi, fare il regalo Intesa fino a 700 milioni. Il mio commento è: e allora facciamo una liquidazione di questo, un regalo a Intesa al mese, così in un anno abbiamo risolto il problema del debito pubblico. Ma queste sono polemiche verso l'Italia, mentre voi un po' confondete. Io vi rispetto il punto di vista. Ma insomma. Sì, in tutto questo, giusto per capire il tema immigrazione, oggi Avvenire ha un'apertura, in controtendenza ovviamente Avvenire, certo, ha anche una grande, certo, attenzione a queste tematiche, e racconta la storia che poi uno dice: ma chi se ne frega di questi 52? No, ma per dire 52 che migranti che volevano aspirare all'Europa e che sono stati trovati morti nel Niger perché abbandonati senza acqua nel deserto dai trafficanti. Cioè la storia delle migrazioni non è che sono solo quelli che vengono qui col macete a volerci uccidere, ci sono anche storie di persone che magari ambivano una vita migliore e sono morti nel deserto abbandonati senza acqua. Va bene, dai, sono il buonista adesso. No, ma sei buonista. Ma sì, sì, sono temi sui quali purtroppo sappiamo che quello che poi si raccoglie è questo. C'è Giuseppe da Alessandria. Buongiorno, Giuseppe. Ciao ciao Elino e ciao Oscar, scusate, ecco. Mi permetto di darvi del tu perché ascoltandovi tutti i giorni parlo più con voi che con mia moglie, allora ormai niente, secondo me ascoltando queste ultime due telefonate io volevo parlare di fatti, però ascoltando queste due telefonate c'è qualcuno che sghignazza. Perché noi ce la prendiamo con Fazio, ce la prendiamo con gli immigrati, ce la prendiamo con Fazio guadagna troppo, però non ci siamo resi conto che noi, e appunto lo diceva Oscar, voi a Radio 24 lo dite, noi abbiamo regalato una banca, a Banca Intesa, ci sono manager che hanno guadagnato miliardi di euro, milioni di euro per far fallire due banche e adesso se ne stanno magari ai Caraibi a godere dei loro soldi e ci lamentiamo che faccio, che poi è un professionista che lavora, secondo me i professionisti vanno pagati, guadagna troppo. Ma perché? Io vedo Gaspare che si spertica, ah perché faccio una vergogna, ma nessuno dice, ma perché quelli delle banche? Certo, mi diranno, però le banche sono aziende private, sì, però salvate con soldi pubblici. Un po' di polemica sulle banche, viva Dio, c'è in questi giorni, no? Immagino, l'avrà vista anche lei, sente ogni giorno Oscar, il Fatto Quotidiano, insomma, sono molto duri. Un po' di polemica c'è, però dice non tanta. Però. Diciamo che ci sono più freni a farla nei confronti dei grandi vertici bancari e la ricostruzione oggi, ripeto sui giornali, va tutta la parte opposta. L'Intesa è un impiego di denaro pubblico che produrrà... vantaggio ai contribuenti, mi scappa da ridere. Vabbè. Cosa ci volevi dire di Woodcock? Che adesso poi dobbiamo parlare anche di un altro argomento. No, io dico che siccome sui giornali il caso Woodcock. Tu fai bene, secondo me, è motivo per cui è straordinario criterio con cui fare la rassegna e poi proseguiamo insieme. Cioè, noi abbiamo una metrica un po' diversa da quella della gerarchia delle notizie della stampa italiana. Ognuno ha la sua, noi rispettiamo quella dei grandi direttori, però lo sai che sui giornali oggi il caso Woodcock, cioè l'indagine aperta alla Procura di Roma, oltre che su Scafarto, il capitano dei Carabinieri, nonché il colonnello che è il vice capo dei Carabinieri del Nove, per le improprie ruoli avuti nel tentativo di amplificare il ruolo del padre di Renzi, l'otto indagato, la violazione del segreto d'ufficio per far arrivare il giornale alle indagini, adesso si apre l'indagine anche per violazione del segreto su Woodcock e Federica Sciarelli, e Federica Sciarelli che sarebbe stato nell'ipotesi dell'accusa indagata anche lei, lo strumento attraverso il quale è arrivata ai media la notizia, prima a scriverne fu Marco Lillo del Fatto Quotidiano che oggi dà la sua versione, ma al di là di questo mi colpisce perché ai giornali questa cosa è arrivata come una cosa di una gravità inaudita. Io la vedo come il solito pasticcio tra procure e Woodcock, tra l'altro insomma ha un track record abbastanza discutibile, ma detto tutto questo, cioè, mi ha molto colpito leggere oggi il foglio che dice è la Watergate italiana, è Watergate italiano addirittura. Poi per carità, siccome capisco che ad avere un atteggiamento più freddo, io oggi per esempio ho scritto un editoriale sul Mattino e qui ho detto al direttore del Mattino, guarda, Watergate italiano non lo so, lo diranno i magistrati, tra l'altro io conoscendo Lillo tendo abbastanza a credere a quello che oggi racconta, però non è questo il punto, non mi sostituisco ai magistrati, chiaro che è gravissimo, no? Che su un'indagine di questo rilievo la procura di Roma che l'ha ereditata dica a quella di Napoli ma voi violate la legge, questo è certo che è gravissimo, per me è altrettanto grave che CSM da mesi e mesi e mesi non faccia la nomina del capo della procura di Napoli, cioè quella accusata di essere di non perseguire la legge, ecco. Per esempio quello mi pare grave e non lo fanno per dissidi di corrente, perché i due candidati, che Federico Gaffieri De Raho, procuratore di Reggio Calabria, e Melillo, l'ex capo di gabinetto del ministro Orlando, appartengono a due correnti diverse, cioè, allora anche quello mi sembra grave. Poi per carità, tu sei d'accordo che il Watergate italiano? No, il Watergate italiano no, certamente è da capire, è una notizia abbastanza seria, insomma, che un PM importante anche come Woodcock, sì, che tra l'altro dell'antimafia, alla Consip hanno rimosso il presidente del governo che era l'unico non indagato, ieri hanno fatto le nuove nomine, io difendo l'unico presidente della Consip non indagato, lo mandate a casa, perché? Marrone. E tra l'altro il nuovo presidente è il portavoce del ministro Padoan, Basso, a cui va i miei auguri perché è una persona serissima che ha svolto non solo molto bene il mio giudizio, gli do i voti più alti di tutti i portavoci e di un ministero delicato come questo, perché era uno che ai giornalisti e agli accademici, chiunque avesse dubbi su Twitter, rispondeva fino all'una alle due di notte. Quindi Roberto, auguri. Però voglio dire, ecco, sei il nuovo presidente, sostituisci un presidente che non era indagato ma è stato fatto decadere, ecco. In ogni caso, tanti temi, noi ne dobbiamo affrontare un altro, per il quale chiederei in anticipo, non so se anche tu, anche Oscar, un po' di equilibrio, anche se capisco che basta dire Domenico Diele, cioè l'attore famoso, reso famoso dalle fiction 1992-1993, i fatti sono nella loro brutalità banali, si è messo alla guida senza patente, la patente gli era stata sospesa in precedenza perché tossicomane, nel senso che lui stesso ha ammesso di far uso di eroina, e senza patente, tra l'altro per sua stessa missione pare controllava il cellulare, quindi guidava col cellulare, ha investito una persona e ha ucciso una persona, Ilaria Di Lillo, 48 anni, è in carcere in questo momento. Dico l'equilibrio perché è facile dire adesso, so già i classici slogan, marcisca, stia lì. Pare che sia anche una persona fortemente pentita, cioè disperata per quel gesto. Tra l'altro Francesco Emilio Borrelli, che noi abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, consigliere dei Verdi, regionale dei Verdi a Campania, è andato a visitarlo, nel senso è andato nelle carceri di Fuorni a Salerno, dove i parlamentari possono entrare, i deputati regionali. Buongiorno Borrelli. E l'ha incontrato. È effettivamente, perché sa, tutto quello che si legge sui giornali, o gran parte di quello che si legge sui giornali, è stato detto da lei in questo incontro, per cui ha un ruolo importante lei, visto che l'ha incontrato. È sinceramente disperato, Diele, colpito? Come l'ha trovato lei? Sì, volevo specificare che io non sono andato nel carcere io sono andato nel carcere perché io lo fa abitualmente fare, certo, delle verifiche delle carceri, delle condizioni sia in cui lavorano il personale sia i detenuti, come è giusto e doveroso e come uno dei compiti dei politici. Pochi lo fanno, ma lei gliene va dato atto assolutamente, no, perché quello è un forno in quel carcere. Pochi lo sanno, ma quel carcere tra l'altro è costruito con dei materiali assorbenti del calore, per cui d'estate non ci sta aria condizionata, non ci sta forma di ventilazione interna, per cui è come se stessero dentro a un forno vero e proprio, sì. Infatti forni formali è proprio legato a questo, e hanno pensato bene di peggiorare le condizioni. Come ha trovato Diele? Durante la visita mi era giunto la voce che lui avesse subito degli atti di bullismo all'interno della cella, e quindi ho chiesto di vederlo. In realtà è esattamente il contrario, nel senso che lui, dopo che è stato arrestato e fermato, non ha potuto vedere nessuno. Penso di essere stato il primo, dopo ovviamente il personale che l'aveva, la polizia che l'aveva fermato e il personale del carcere. E in realtà i detenuti gli hanno dato da vestirsi, lo shampoo, un ricambio di... Sì, insomma, solidarietà carcerale. Esatto, e quindi insomma lui mi ha detto esattamente il contrario. Poi lui mi ha raccontato, perché io l'ho visto, come dire, particolarmente provato, come è giusto che sia chiaro, questa persona non doveva stare sulla macchina, non doveva fare uso di eroina, non doveva usare il cellulare, doveva avere l'assicurazione, ha ammazzato una persona, insomma non è che è facilmente giustificabile, però io l'ho visto molto provato, al punto tale che io vedevo che lui si contorceva, cioè si stringeva fortemente le braccia mentre mi parlava e mi raccontava, perché la prima versione è che lui era fatto di cocaina, in quanto che gli avevano trovato dentro un portafoglio una minima dose di cocaina. Lui ha detto che in realtà quella dose la teneva molto tempo, non ha mai fatto uso, perché lui è dipendente dall'eroina. E ovviamente dopo che era stato arrestato è entrato, come dire, in crisi di astinenza. E io ho domandato se avesse chiesto al personale medico del carcere di farsi dare qualche cosa per alleviare il dolore, perché ovviamente la crisi di astinenza quando sei dipendente dalle droghe è molto dolorosa. E lui ha detto, mi sembra che stai soffrendo parecchio, e lui ha detto no, è giusto così, quasi mi è sembrato, non me l'ha detto esplicitamente, che si stesse autopunendo, infliggendo del dolore fisico per espiare in qualche modo la propria colpa, per soffrire anche lui almeno quanto sta soffrendo in particolare il padre di questa signora. Sì. E dopodiché lui mi ha detto: io ho sbagliato, so già che il film della fa, perché lui aveva visto tutti i TG, quindi praticamente aveva visto la descrizione che io sono un mostro sbandato, ecco, cioè ha detto io sono una persona con delle difficoltà, solo, me l'ha detto proprio due o tre volte, profondamente solo, perché ho sbagliato tante amicizie nella mia vita, ma non sono né uno scapestrato né che fa una vita mondana né altre cose, nel mio mondo, cioè il mondo ovviamente del cinema, è abbastanza frequente che si usano che si usano droghe. Io ho fatto un gravissimo, una cosa mostruosa, una cosa sbagliata, una cosa devo pagare. Allora, ma questo, non descrivetemi come un mostro, uno sbandato che piglia e gira in macchina. Ma infatti, diciamo, le poche persone che lo conoscono, questo dicono Oscar, cioè voglio dire, ha fatto un errore, una serie di errori tragici e anche di scelte tragiche, perché mettersi al volante senza patente, con una macchina non assicurata, questo in tutto è il meno dei mali. Però, usare il telefonino mentre andava, e purtroppo è scoppiata poi questa, è venuta la tragedia. Con noi c'è anche Giordano Biserni, Associazione Amici Polizia Stradale. Buongiorno Biserni. Sì, buongiorno agli ascoltatori. È vero che voi vi costituirete al processo? Che cosa? Cosa farete al processo? No, noi ci costituiremo parte civile. Parte civile. Perché in questi processi legati soprattutto all'alcol e droga, l'ASAPS non è il primo. Noi siamo già stati riconosciuti sia a Padova che a Piacenza che a Frosinone e altre realtà, poiché siamo fra i promotori della legge sull'omicidio stradale e siamo un'entità che da 26 anni si batte per la sicurezza stradale in maniera così diretta e costante, eccetera. Diamo un riconoscimento di questo tipo anche per affiancare la famiglia in questa situazione, la famiglia della vittima, intendo dire, in questa situazione così difficile. Questo fatto che avete descritto è estremamente grave, ha preso la cronaca perché si tratta di un attore, però le voglio dire una cosa, se mi permette, guardi, che di episodi simili ne sono successi altri due, quantomeno in questi giorni, uno proprio in Veneto con un conducente della vettura che ha falciato un ciclista, lo ha ucciso, ed è risultato positivo ancora una volta la droga. Quindi qui si pone un problema ben vasto, molto delicato. La gente non si rende conto, non parlo in questo caso di Diel eccetera, non si rende conto a quello che va incontro di fronte a un omicidio di questo genere, perché di omicidio si tratta. Qua parliamo di pene che vanno da 8 a 12 anni in questi casi, una revoca della patente per 15 anni che nel caso venga considerato recidivo, perché qui siamo di fronte a una recidiva per stupefacenti. Questo giovanotto aveva già avuto la patente ritirata per stupefacenti, quindi non dimentichiamo questo particolare, perché qualcuno dice ma come mai si tiene dentro eccetera, ma io non so voi come la pensate, ma però anche sul si tiene dentro, sai, c'è questa polemica sugli arresti domiciliari, che ricordiamo non sono un vai libero ma una detenzione però ai domiciliari, poi saltata per mancanza di braccialetto elettronico. Vi sconvolge, vi preoccupa? No, guardi, noi non, partiamo da un principio, cominciamo col dire che una misura cautelare non è un'anticipazione della pena. La misura cautelare viene attivata dal magistrato quando ci sono i presupposti. Sì, chiaro. Ora, qui bisogna stabilire se ci sono i presupposti. Fra i presupposti, misura cautelare, eccetera, mi pare siano due o tre, insomma, il pericolo di inquinamento della prova, il pericolo fuga, di fuga, e soprattutto il pericolo della reiterazione del reato. Ora, qui di fronte al pericolo della reiterazione del reato, mi pare che ci siamo in pieno. Se è vero che questo conducente aveva già una patente ritirata per uso di stupefacenti e guida ancora senza patente, sotto l'effetto dei stupefacenti, quantomeno. Poi bisogna aprire un discorso, Samina, anche sul discorso cellulare stupefacenti. Poi bisogna aprire una parentesi, se vuole poi la apriamo dopo. Quindi da questo punto di vista c'è un rischio connesso sicuramente col comportamento. Poi che siano domiciliari col braccialetto senza, lo vedrà il magistrato, ma questa è una condizione che in qualche maniera è una catena della guida che va in qualche maniera interrotta, fino a quanto almeno non si è fatta chiarezza completa anche sull'uso dei stupefacenti. E se vuole esprimo un dubbio. Sì, cioè? Cioè, qui avete sognato anche voi, lo ha fatto mi pare anche il consigliere, c'è distratto la guida eccetera col cellulare. Sì. Vabbè, questo lo ha detto il ragazzo, per carità, sarà il magistrato a stabilire. Però attenzione, perché la nostra esperienza come ASAP ci porta a dire che in molti casi è anche strategico. Perché se io dico, sono risultato positivo agli stupefacenti, però un momento salterà fuori il momento l'avvocato che dirà sì, era positivo gli stupefacenti al narcotest, ma l'effetto del narcotico era attuale in quel momento, va accertato bene, perché se così non fosse non si ricadrebbe nella casistica più grave del 589 bis, quindi dell'omicidio stradale, ma è capitato perché io guidavo usando il cellulare. Ah, beh, questo sarà in fase processuale, cioè si vedrà, certo, non possiamo anticipare il processo, non possiamo sapere. No, però sa che differenza scatta? Scatta che se io sono ubriaco o drogato la pena va da 8 a 12 anni. È chiaro. Se io guido perché sono distratto dal cellulare non rientra neanche nella casistica intermedia del 589 e scatta una pena come era nella precedente normativa da 2 a 7 anni. Quindi ha capito cosa voglio dire? No, ma è chiaro, è chiarissimo. Quello che ci dice Oscar è che se uno passa la linea e era al cellulare è meno grave, lo traduco per far capire, è ovvio che è grave guidare col cellulare, ma è meno grave dal punto di vista processuale che ovviamente se fosse stato sotto effetto di stupefacenti. Sì, sì, ma ecco, adesso questo lo giudicheranno appunto i giudici, gli artifici della difesa rispetto all'accertamento dei fatti, posso capire, ma queste sono questioni di tattica procedimentale e processuale. Il problema in questo caso, a mio giudizio, io non credo che si possa giudicare dall'esterno. Io naturalmente capisco una cosa, c'è una signora che è morta, una famiglia che non l'avrà mai più, ai loro occhi si mi mettono i loro panni. E beh, tutto questo. Il fatto che a commettere il fatto sia un attore giovanissimo, comunque visto dai loro occhi come un privilegiato, uno che fa parte del jet set, eccetera, eccetera, è dipendente da droghe, che ciò malgrado guida, fa e così via. Se mi mettono nei panni dei familiari, capisco e do per scontato che chiedano il massimo possibile. Insomma, mettere le galere e buttate le chiavi. Detto tutto questo, il problema per chi resta e per lui che sta in carcere è tentare di rimpadronirsi di un timone della propria vita in cui tutti quelli che lo hanno conosciuto, io conosco una persona che lo conosce, con cui ho parlato ieri, il suo problema sarà questo e sarà molto complicato perché nella vita ordinaria non è riuscito a riprendere il controllo della sua vita. Che ci riesca in carcere, sappiamo che nel carcere è dannatamente più complicato, ho visto la percentuale di persone dipendenti che ci sono nelle carceri, e questa è la sintesi, perché viene prima dal numero di anni di carcere, perché posso dire quella è una tecnicalità perché il giudice a stabilirla. Il problema è quanti sono nelle condizioni di chi ha commesso il fatto che c'è una vita in meno perché è in particolari condizioni fisico-psichiche. Ecco, questo è punto. Nel chiudere vogliamo dare la parola a Paola da Milano che ci chiama su questo tema. Paola, buongiorno. Sia sì, sintetica, buongiorno, per Milano. Cortesia, perché non abbiamo tanto tempo. Sinteticissima. Due messaggi. Uno, che spesso non si considera l'auto come un'arma, nel senso, perché lo è, sotto l'effetto della droga uno può prendere un'ascia come Cobobo perché era pazzo e ammazzare, ma l'ascia non è fatta per ammazzare, esattamente come l'auto non è fatta per ammazzare, per cui la considerazione è questa. Penso solo che passino se lui se la cava, passino solo dei messaggi sbagliati anche per tutti i ragazzi che si mettono alla guida, ecco perché spesso non penso che il termine se la cavi in carcere, perché gli avevano pensato al braccialetto elettronico, il braccialetto elettronico non c'è, è in carcere, è in carcere, e poi insomma ci sarà un processo, immagino ci sarà anche una pena, ma questo vedremo, insomma non dobbiamo anticipare noi quello che succederà. Però con la telefonata di Paola, ringraziando Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Amici Polizia Stradale, Francesco Emilio Borrelli, ci fermiamo. Guarda quanti sono in redazione, caro Oscar: Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Chiara Compagnoni, Peter Bescapere. Ma Peter ha uno sguardo che sembra un sottufficiale della finanza, no, che mi deve arrestare. Sì, ha anche la maglietta del colore. Ha dormito tre ore, esatto. Anche lui era la Wondy Night. No, quindi, so, però semplicemente ha uno sguardo un po'. Vuole un caffè, semplicemente va bene. A domani.